I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Prima che inizi il dibattito anche abbastanza stucchevole tra chi vede una ripresa economica e chi è ancora molto scettico, cerchiamo di capire con esattezza che cosa abbia detto la Confcommercio quanto a spese natalizie. È innegabile infatti che l'Associazione dei Commercianti abbia registrato come stima, dopo 7 anni di consumi natalizi col segno meno, un primo Natale con il segno positivo. Ed è un segno positivo anche di sostanza, un più 5% nei consumi natalizi, che in cifre si dovrebbe tradurre in 10 miliardi di euro in regali di Natale utilizzati dalle tredicesime, che aumentano dell'1,2%, raggiungono i 40 miliardi, 8 se ne andranno al fisco. Fin qua le notizie positive. Perché è inutile entrare in un dibattito tra ottimisti e pessimisti? Perché la stessa Confcommercio a ricordare che il più 5% dopo 7 anni si deve confrontare con un meno 30% ancora nei consumi sotto Natale, il che vuol dire che i 100 euro che spendevamo nel 2007 restano attualmente 70 euro per le spese natalizie. Paradossalmente il terrorismo, il rischio attentati non è necessariamente una variabile negativa in questi consumi. Potrà infatti ridurre l'afflusso di turisti esteri, ma potrebbe anche spingere molti italiani a non recarsi in alcune mete all'estero, restare in questo paese e sostituire quelle spese con un altro genere di spese realizzate però in Italia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Mentre l'America si prepara ad alzare i tassi di interesse per tenere sotto controllo quei segnali di ripresa che indubbiamente esistono per l'economia e anche per il lavoro, l'Europa continua a navigare in acque difficili. Nuovo intervento di Mario Draghi e della BCE sulla liquidità, appena deciso, dovrebbe servire proprio a questo, non solo a dare ossigeno alla ripresa, questa è la speranza, ma soprattutto a cercare di creare quell'inflazione che ormai da anni o non sale o addirittura scende. Questo ha detto Draghi ancora nuovamente, siamo in un momento di forti tensioni, c'è anche la variabile del terrorismo che pesa sulle aspettative e soprattutto sulla propensione ai consumi e ai viaggi delle famiglie e soprattutto sul commercio internazionale. Beh, insomma, continua la stessa risposta in un vuoto politico drammatico. La risposta è quella della liquidità, ma come abbiamo visto, la liquidità, 1.100 miliardi di acquisti di titoli da parte della BCE non hanno spostato le lancette né del lavoro né dell'inflazione. Beh, insomma, evidentemente non basta. Probabilmente è ora che i governi cominciano a considerare nuove opzioni, come ad esempio gli stimoli fiscali, come si sta facendo già in altre parti d'Europa, e soprattutto politiche industriali finalizzate alla creazione di lavoro. Altrimenti, né per l'Italia né per l'Europa ci sono reali speranze di ripresa nel breve termine. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.